La stampa araba negli ultimi giorni, stranamente con una unità rara di azione, si è scagliato contro il presidente palestinese Yasser Arafat. E ciò fa pensare soprattutto a che cosa è oggi Arafat, che cosa è il problema palestinese e soprattutto che cosa è il problema palestinese per altri paesi arabi e non tanto per Israele. Perché il direttore del quotidiano Al-Siyasa, che è un quotidiano kuwaitiano, parla male di Arafat e lo accusa addirittura di terrorismo. Dunque, credo che storicamente i kuwaitiani non siano stati mai vicini ad Arafat. Il direttore di Al-Khabar in Egitto fa lo stesso e addirittura parla della devastazione del futuro del popolo palestinese per mano di Arafat. Il direttore del quotidiano egiziano dovrebbe ricordarsi dove è lui e che cos'è il governo egiziano, che prima il Camp David è stato fatto molto prima che Map Road. Dunque, poi passiamo al Quds al-Arabi, altro quotidiano londinese che fa lo stesso. Poi c'è Al Hayat, altro quotidiano ancora, Al Rai giordano addirittura, che parla dicendo Arafat si aggrappa alla sua poltrona a spese del sostegno internazionale a favore del popolo palestinese. E c'è Al Sharq al-Wasat che addirittura consiglia e dice, insomma, che Arafat sta facendo favori a Sharon. Ora, bisognerebbe riflettere un attimo e pensare che questi tutti parlano di un Arafat che non è Arafat degli anni 80, perché in quel momento Arafat aveva un quadro dirigente a disposizione che oggi non esiste più, sono stati uccisi tutti dal governo israeliano. Diciamo così che oggi Arafat si trova a gestire il governo palestinese con quadri di secondo piano. Il problema della corruzione esiste, ma bisogna ricordare anche che in un paese come Palestina o in Medio Oriente in tutto, dove non c'è la democrazia, il cambio e il ricambio del classe dirigente non è così semplice e facile. E coloro che chiedono oggi l'uscita di scena di Arafat, soprattutto sanno che dopo Arafat il problema di palestinese non sarà più un problema di tutti, sarà soltanto problema che verrà gestito da qualche paese arabo e da Israele. Dunque tutto a sfavore del popolo palestinese. Non credo che ci sia una corruzione superiore a quello che c'è oggi in Iran, a quello che c'è oggi in Giordania, a quello che c'è oggi in Egitto e altri paesi arabi, ciò che oggi incontriamo all'interno del governo provvisorio palestinese. Ma soprattutto bisogna ricordare che Arafat oggi ha a gestire una situazione dove i fondamentalisti islamici hanno la meglio sull'Al-Fatah e sulle organizzazioni laiche palestinesi. Dunque non credo assolutamente che ci sia davvero questa necessità dell'uscita di scena di Arafat, se di ciò che è rimasto vorremmo avere qualche soluzione positiva per quanto riguarda la Palestina. Perché Arafat, casomai, se c'è da criticare, bisognerebbe criticare la sua accettazione di roadmap, bisognerebbe criticare altri accordi che ha fatto, e tanto che lui viene criticato da tutti questi giornalisti e quotidiani perché non rispetta totalmente roadmap. Io credo che roadmap, rispettandolo totalmente, è bene non trattare su nulla e regalare ciò che è rimasto della Palestina all'Israele e non discutere più di nulla. Allora io dico bene che Arafat rimanga al suo posto e sperando che ci sia un classe dirigente palestinese che possa seguire la sua strada. Ali Gaderi, Reporter Associati.